quella sera, se batte il cuore, non batte che per te. Ma una chimera è questa noi, se tu non pensi a me, ho visto piangere. M'hai fatto tanto male tu, perché io so che il tuo dolore non è per me. Ho visto piangere, il nome t'ho sentito di chi tanto ti fa soffrire, senza pietà. Vorrei consolar le tue pene, e poi darti tutta la mano. Ho visto piangere, m'hai fatto tanto male al cuore, perché io so che il tuo dolore non è per me. Thank you.